la buccia. Se ce ne sono altre, ne facciamo 3-4, ma chi? Cosa vuoi? E poi, se lo non ci stanno, ho 2 tubi e basta. Ma già va bene. Senti, se no, che tubo le ome? Perché se no poi tocca mettere un'altra croce. Ho messo 2 croci per mantenere. L'ho appesa al radiatore del collo, del motore, del condizionatore. Ho capito. No, dico, se avevo un tubo vuoto, ce l'ho a prendere da me, mi. Ah, se posso prendere, sì. Non mi devi pagare il parcheggio, ti. E io ho preso un carro, 50 euro al giorno ho preso la ciccia. Facciamo questa imbarcata e poi vediamo. Di lusso, di lusso. Aspetto, collega, via. Vabbè. Tempo suo, ci vuole il suo tempo anche. Se lo sai fare. Cosa le faceva prima? Il padre di... vabbè, un vicino di casa. Sì, che l'uomo di cinghiale. Sì, ma il cinghiale ci vuole anche... anche il pazzo del maiale, capito? Perché è proprio magra come carne, però. Ah, mi scuglio? Sì, metà, diciamo, ora sì. Un po' di dare la metà del maiale e l'altra cinghiale, se no copre troppo il sapore. Se ne vendeva, mi scappa. Dunque. Lui, tre poche ne avevo venduto. Come li hai venduto, sì? Sì, già sono andato quasi più di 80 kg. Cazzo! Vabbè, poi qualche uno non si fatta anche, non è che... vabbè che il circolo d'amico è chiuso, se no mai l'avresti venduta un po'. Anche da Mirko, aspetta, avevo l'altra radio accesa. Vedevo le monete, tu chi sarebbe la meta, vedo io. Stavo autoascoltando. Allora, l'avevo voluto dare anche a Mirko, solo che è chiuso, vabbè. Se voi glielo posso chiedere, se ne vuole, poi di padre, tu. Sì, però adesso ci vuole un po' qualche giorno, il tempo di asciugare. Senti, non c'è problema, tranquillo. No, si può anche accennare. Sì, già. Andà bene. Gli ultimi le devo dare domani. Più adesso queste che facciamo 40, sono di più dalla vita lucana. Vabbè, già va bene, 120 kg sono in tutto, e ti pari poco, andà bene. E mia nipote mi ha dato la piastra, se gliela ha riparato, c'è un filo, faccio contatto, se gliela devo tagliare il filo, prendimi lo spinotto che va dentro e poi glielo arrangio con il termorestringente, come si chiama, si chiama. Sì, ma un grosso fino a voi. Che cosa? Il termorestringente. Già ne ho, io ho tutte le misure, pezzi piccoli sono, pezzi da bricco, hai capito? Sì, ne ho una scatola anche io, se vuoi. Già ne ho, ne ho anche io 2 scatole, solo che... è un casino perché ce ne vuole un pezzo grande, poi ce ne vuole un pezzo più piccolo ancora, poi un altro piccolo più ancora, giusto per essere tutto pari. Ah, ho capito. Andare. Cazzo, aspetta che prendo il telefono, ti mando una foto di cosa devo far riparare, aspetta. Te lo sto mandando se riesco, non so se ti è arrivato adesso. Sì, già suona tanto. Sono riuscito a sfocato il come si chiama il numero, aspetta. Ah, qua come fare le salsicce? Ah? Ho detto qua per fare le salsicce. Guarda cosa c'è scritto. Sì. Questa per fare la sotto vuoto, no? Via. Va bene, fai in grosse quantità. Cosa fai? Una roba che ne ha. Ecco. Com'è costa? Già costicchia. Non l'ho preso da Wish, no. L'ho preso da... vabbè, sono stato consigliato da un amico mio macellaio. Tocco, bello. Più che bello è utile. È buon gusto, però vabbè, già ne vale la pena. Fa tutto, anche il guanciale intero. Adesso lo sto facendo. Sì, non so le cose costano. Vabbè, piano piano te le rimetti su. Oh, è già pagato. Allora va bene, dai, butti il dito. Ecco perché mi è venuto. ti stia va bene, dai. Vabbè, io non è come un prodotto particolare, quindi in tramite amicizie ci si lavora anche. Beh, giusto. Giusto, vabbè, poi magari qualche regalino glielo fa, qualche pensierino, dai. Cioè, sembra il dubbio, sempre. Si fa così, si può anche andare così, dai, non è che... vabbè, vediamo. Più pittizzi. Aspetta che mi provi. Che sto usando? Quello del coso, del Mubicon. Ma sto usando il? Cosa sto usando? Il Mubicon. No, 3009, Superstar. Ah, e con questo quanto sto arrivando? A portante fisso, dai. Sono 20 watt. Questo apparecchio è un po' secco, segnale 7, è da tarare lo Smith, ma non lo tocco, se no mi porto danno. Lo toccherò quando non sto facendo niente, aspetta, mi sta chiamando la mia ragazza. Sì, fai, fai. Mi ha fatto la videochiamata. Cos'è lui? Ho detto, mi ha fatto la videochiamata. Ah, bene, bene. Mi chiama bene, cosa sono vuoto. Sì, no, io. Alla Bexa, stavo proprio andando da Umedo adesso. Di più. Devo prepararmi andare a Umedo adesso, devo portare anche lì. Ah, buono, buono. E dato che ci sono, ne approfitto, ne fermo, a pranzo, va. Ah no, vabbè. Tanto già si può uscire, è vero, sì. Sì, adesso sì. Però rimane sempre, come si dice, coprifuoco. Ah, sì, verso le 10 mi sembra che sia, boh, non mi ricordo, le 10 a casa. No, vabbè, ma io già dovrei rientrare prima. Vabbè, già va bene. Allora, aspetta un attimino, che c'è qui a 1 e 2 mi servono. Cazzo, ma non l'ho buttato. Adesso mi è arrivato un messaggio. Chiama la gara, chi durà Nottino? Vabbè, sono già più di forse due ore in piedi, al PC. Cioè, quando si è abituato a altre prete, poi la mattina non riesce a fare, anche se magari volevo rimanere, però mi viene mal di schiena se mi riposo del tutto. Ah, io, vabbè, sono dormito un bel male stanotte perché la mia ragazza ronfa. vabbè. Capita, quando si è stanchi, quando si è con i capi a mare, boh. Lo so, purtroppo, vabbè, non la posso condannare, cosa devo fare? Non la posso condannare, mi sa che c'è sta cosa d'attore, faccio questo lavoretto qua. Ma che esistono quegli attori per mettere nel naso, per non russare, veramente non dilatano le narici, dai. Sotti mi ti tappi le orecchie. Vediamo sotti che esiste questo coso che va finito nel naso, poi ti viene poco comale. E se avessi per Claudio, ci sei. Già ci sono io, sì. Sette, giusto? Sì, è da tarare lo Smith, il caso mi arriva a 9. Sente che è stato Claudio, vi sei Claudio, te faccio pulizia. Sto preparando l'elicottero, sotti. Ciao Sla, guarda adesso Luca, l'elicottero, mi pare che o stai aspirando qualche cosa. Andare, prova Luca. Sei salita a 9, quasi 9,5. Se muovo così al malo. Beh, sì, prima di 7, ma se 9,5, non è avvaro, no? Avvaro Vitali. Ah, 7, sì, allora sì, va bene. Ma chi? Che ti fai di pulpo, ma chi? Muovimi, facci io a casa, ma chi? A proposito, ma è Giovanni che ti ha fatto, l'utre me. Ah, molto, adesso mi so, non mi parlo io. Questo che ha parlato male alla mia ragazza, e continua a parlarne male. Rapida la ciaffi. Già parla male di sé. Sì, che lo dimmi, dai, non lo dimmi io, mi. Userà un picchiatore, cioè, sì, per una cucinuta a me. Una mano non l'ha a fare, lo dico io si fa. Adesso si comporta bene, a parte non lo puoi toccare perché è malato. E infatti, lo deve. Ma vai. Ci va a parlare male della nipote, boh. Che vuoi che le dica? Per carità, vabbè, è stato un forse qualche venerdì ce ne manca, Ma che ci carità, proprio per carità. E beh, tra combinando, mi ha attaccato questo ricotto, da io. Ah, se questo non riesce a toccare 100, porca miseria, toccherà comprarmi un RM Italy, No, io se, guarda, se riesco, così ci riesco, un 747, voglio comprare. Sono io. Fa la prova a vedere com'è. Se vuoi c'è un po' di stazionare, però finché non sistemo l'antenna non posso fare nulla. Io ne ho due. E della verità non lo voglio vendere, quindi te l'ho preso. Sì, vabbè, tanto te sei cosetti, non lo devo comprare comunque, capito? La superiore, che sto per averlo. Te lo devo comprare, se ti va bene te lo compri, se no lo lasci. Io vorrei fare così per tutte le cose, nel senso che anche io vorrei comprarmi una RM Italy, però nessuno l'ho preso a provare, quindi devo chiedere al mio amico. Segnale, poi lascia perdere ventole e ventoline, che ce ne sono tante quando accendo. Guarda questo segnale, Tino, quanto è così con 8 watt? 8 watt vai da Santiago 8,5 a 9,10 modulati. Ok, sei col K, sì? Beh, altre cose non ti posso dire, e questo è l'unico affidabile. Ok, adesso poi a parte i rumori che senti di ventilazione, che per forza c'è, perché quando schiaccio va in ventilazione, mi devi dire quanto sale il segnale, ok? Allora, la ventilazione c'è, ma non disturba perché è proprio leggera e va più che bene. La radio è ottima, prova. Sì, però quando schiaccio, adesso è sganciato, sono sganciato. Quando aggancio, che schiaccio il PTT, la ventola dell'amplificatore diventa più veloce, capito? Questo è un altro tipo di amplificatore. E quindi sentirai la ventola, ma poi si prova col microfono normale, si fa qualche altra cosa. Adesso mi interessa sapere, da questo passaggio, dammi il tempo di agganciare, al secondo passaggio quanto sale? Vai, è tranquillo, eh. Guarda a vedere quanto è salito il segnale, se la radio è rimasta, poi il problema di ventilazione lo risolviamo. Guarda se il segnale è rimasto, cioè se la radio è rimasta stabile. Allora, la radio per me è aumentata un pochino di più, potresti allontanarti dal microfono, però non vai a oltrepassare i 9,20, mi immaginavo qualcosa di più, Non va a oltrepassare 9 più 20? No, c'è qualcosa che non va. Così è, non ce la fai. Non ce la fai proprio, ci manca un pirino a toccare 9,20, quindi sì, attaccate meno dei 9,20. Togli l'attenuatore, togli l'attenuatore. Ma che attenuatore, che non è attenuatore, che nel sentimento dell'attenuatore abbassi. No, c'è qualcosa che non va. Qua? Allora, intanto attacchiamo il vatto, dentro. Mo. Ti ho fatto preoccupare, dai. Vai a quasi 9,40, non ci arrivi però, prova a fischiare. Tino, no, perché qua mi sta segnando un attimo, è troppo impossibile. Ottimo, cioè, l'ho fatto apposta. Allora, diciamo che con il fischio e che magari qualche volta quando vai in modulazione continua, riesci anche a toccare 9,40. Rivai senza. Aspetta che mi arriverà il tempo che si spenga, perché non ho capito un bel di là. Quindi, ricapitolando, da liscio all'attaccato c'è l'incremento. A voglia, dai, ho tolto anche l'IP. Allora fai da 9,25 a 9,40. In città, va bene, va bene. Quindi, adesso. Adesso l'altra domanda ti faccio, poi ti lascio tranquillo. Si sente molto la ventola quando schiaccio, però purtroppo quella aumenta, perché aumenta la ventola quando io schiaccio il PTT. Si sente, guarda, aspetta, lascia vedere. Una cosa del genere, aspetta se riesco ancora a sentire. Allora, come cacchio era questo? Lo senti, eh? Dove cazzo? Ok. Una cosa del genere. Vabbè, vabbè, vabbè. Però sentirsi la ventola, devo fare la prova con il microfono normale, che non è male. Me la dai un secondo che te la faccio? Sì, fai, tanto sono qua, ancora per poco. Beh. Io vi posso aiutare perché sto saldando adesso, eh? Un attimino. Lo stesso segnale di Luca, solo che Luca ha un picco in meno, diciamo, di modulazione. Quando si liscio è claro. Io sono il naso. Ma Luca, perché cuocuo? Ma allora questo è il microfono normale, che non è male, vero? Il mio parere a me non disturba, ecco, non è male, però è troppo normale. Lo so, però se la ventola è giusto per fare qualche prova, no, quando c'è qualche monellaccio, a me non mi interessa la ventola, purtroppo ci sono, le ventole ci sono, tutte le cose si sentono, questa si sente di più. Allora adesso aggancio e mi dici se senti la ventola, ok? Sai. Luca, guarda il segnale così, a vedere se lo sblocchiamo quello smitter, guarda il segnale così, normale. Vai, sei 9, poco più di 9. Così è il microfono normale. Adesso è agganciato. Lo sentite la ventola? No, non si sente, non vedi se è salito là. Però sai che io sono smettere cani muschi, un bel. Allora, là, si sente, ma proprio in lontananza, un bel lontananza, quasi inesistente, però non la sento. Vabbè, la radio forse un pochino aumentata, un pochino di più, Sì, sì, quando attacchi l'amplificatore la radio aumenta, dai. K del Roggio, vabbè, la prova io l'ho fatta, dai, lo teniamo in stand-by, nel caso dovesse servire, agganciamo. Sì, mandami foto, se voglio vedere cosa stai usando. Sono curioso, dai, prima di comprare devo fare un pensierino. Quello là è il Winner, sempre della RMLLA 1000. Questo è l'805, sai chi c'ha il gemello, sì? Ah, sì. Questo è l'805, l'ho sballato adesso perché non è arrivato a casa mia, se no mi cudini a colpi di roccio, capisci a me? E adesso ti mando la foto. Meglio, vai, vai. Questo è a tre ventole, quello là è una ventola. Ma sempre grigio, Sempre? Grigio. Quello là è nero, questo è grigio. No. Così vi faccio un'idea. Va bene, io ieri ne ho visto anche uno come il nero che tu, con due ventole però sopra, ma quello è sempre della Remita, ma è 300 watt, non di più, capito? Niente. No, ti, qua stiamo parlando quasi del triplo. Aspetta, è già una cosa del genere, sì. Bello. Come mai non mi è arrivato il baffo celeste? Come non ti è arrivato il baffo celeste? No, mi dà che non l'hai visto ancora. Ah, forse per una sua impostazione nascosta. Sì, l'ho visto però. Bello. Ok, c'è il problema della ventilazione, dai. Non vedo, però non è male comunque questo microfono, sono in cuffia, ti dico che va bene, microfono normale, leggermente un po' più alto del normale, niente di che, da. Però con l'altro microfono, il 40 lo toccavi qualche volta, con questo no. Con l'altro microfono, col Turner? Sì, deve essere che aveva qualche spinta in più. Vabbè, lo attacchiamo, ma la fottiamo della ventola, aspetta. E ti metti? E per mettere la portante senza essere silenzioso, ha capito. Maledetto. Mandami anche la foto dell'alimentatore però. Sì, l'alimentatore è dentro. Massimiliano me li ha messi dentro un contenitore, capito? Fatto da lui, bellino. Sono due alimentatori da 50 ampere accoppiati, non si vedono. Si vede solo questa scatola nera con l'interruttore e basta. Poi i connettori sono dietro. Ah, ho capito, gli alimentatori nudi, diciamo, quelli con cose in acciaio. Quelli sono buoni, li ho pagati 25 euro l'uno, sono arrivati da fuori. Tutti e due da 50 ampere. Ma ha finito ieri, Massimiliano, infatti ce l'aveva lui, l'alimentatore. Sono andato a prendermelo stamattina, ci abbiamo preso un caffè, quindi non potevo provarlo, capito? È la prima volta che lo sto provando. Va bene, va bene. Ti ripeto, si sente la ventolina, ma non disturba. La radio per me è migliore così. Se hai modo di magari rimetterlo, che ne so, un po' coperto, un po' lontano dalla radio, non disturba. Sì, è l'angolo della finestra, allora lo metti. E come faccio a coprirlo? È una manta sopra, deve dissipare, sennò è un casino. No, tipo una scatola che è spaventata, è meglio fare che se raffreddi con l'aria sua stessa, però non senta il rumore, capito? Senza fare i buchi? No, no, sempre quelli buchi laterali, ma non esagerati, capito? Perché lui si scalda, ma scalda quando? Quando lo usi, anzi addirittura io, quello che ho, quello grande, le ventole non le ho mai accese perché le ho fatte comandate, non per altro, perché non raggiunge mai la temperatura per poter accendere le ventole, capito? Cioè non è che tu adesso, se metti la mano sopra, non è caldo. No, ma non sei tanto silenzioso? Se non accelerava quando praticamente schiacciavo la portante, manco te ne accorgevi. Vabbè, però è così, dai. Va bene, è giusto una prova, non è che devi buttare con chi sta attaccando. Vabbè. Va bene, signor, dai, che mi devo preparare, ma almeno devo fare consegna e poi mi devo fermare, ma ne ha cognato, tanto che sono lì. Ci si ascolta nel caso, stasera quando rientro, se non faccio tardi. Del resto, buon tutto, buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo magari stasera quando rientro. Ciao, divertitevela. Ciao a te, ciao per il prefettore d'antenna dei 20 dB, uno spettacolo. Ti porto quasi a 9.40. Sì, ma io fatti qua, se io lo tolgo quello lì, fai un passaggio. Guarda un po', 1, 2, 3, 4. 9.30, ti tolgo 10 dB. Se lo inserisco, magari lo lascio per segnare i bassi, capito? Quindi non mi interessa, insomma normalmente dovresti essere così. Scappa di elogio, va bene, la radio confermi che la devo lasciare così, non devo aumentarla, niente, tutto ok. È la tua, va bene, è forte. Va bene, grazie a te dei controlli, contraccambierò quando ne hai necessità tu, dai, rimango in stand-by e metto a posto. Ciao Luca. Ciao T, ciao, più tardi. A stasera, tardi non ci sono. Meglio Lucaria, ci sentiamo più tardi, dai, anche se scendi la marina, già sono in radio. Ciao, no, siamo in campagna, Cla. Ehi, a stasera, dai, ciao. Comunque già sono qua ancora, se devi fare qualche controllo, chiudi una schiaccia, la portante. No, mi ho già sganciato, è giusto per, capito? Giusto per. Cos'è il tuo rumore? Ma alternata senti, no? Prova, schiaccia. Le ventole. Sì, il vento dell'alimentatore si sente, maledette. Va bene, KK. L'importante non si sente alternata, dai. No, sono negativo. Va bene, Lu, dai, sono qua. Ok, che metto a posto, poi già sono qua intanto. Ehi, già di... fa. C'è il sistema, magari allumi il cavo, metti più lontani. Come si sente? Ehi, acqua, come? E vabbè, ma con Rosani, che andi chiccio. Vabbè. Così meno si sente lui. No, sente un bel. Tre vento le so, non le bucce di giocano. Non le bucce di giocano. Comunque hai visto il tuo, nonostante sia sordo, già sale. Sì, sono tratti così, là, capito. Vabbè, dai. Gappa. C'è qualcuno all'ascolto? Cosa vuoi? Puoi parlare da solo? Prendo le scatole, sai, la mattina. Cosa vuoi che ti faccio schiattare? Ma te ne immagina questo qui, la mattina presto. Ma è vero? E beh, Luca, com'è questa modulazione? Bella, Natalia. Sotto le sicure che tocchino la piastra, aspetta. Così c'è da fare. Andiamo. No, stavo guardando, ho attaccato il vatti mentre mi sono spostato sul 20 un attimino, stazionari agganciato, non ce n'è, sono sempre uguali e così deve essere, la mania che intengo mi ha dato, ma quando attacco il lineare mi aumento le stazionarie, vuol dire che c'è qualche disaccordo, non deve aumentare niente, devo rimanere sempre uguali. Certo. A me rimangono uguali, sono tanti vatti, non sono pochi, sono tanti, mi rimane sempre uguale. Uno rapporto a uno, praticamente 0,95 e così rimane, vermo, secco e petto. C'è capo buono, spezzoni buoni, è tutto a camille sia interno che esterno, PL in anfero, il piantatore è fatto bene lui, no? Dispersione sulla parte elettrica non ce n'è perché c'è il quadro col salvavita, lo vai avere impianto, se no come ti vai? Noi portiamo gli adi, sacchendi e fendino, sono due commutatori della Daiwa, due commutatori d'antenna della Daiwa accoppiati, che sono uno spettacolo, e quindi l'antenna sua adesso è diretta, prima passava tramite l'altro commutatore della Meritron, ma sempre roba professionale. Va bene, sono contento, ottimo per la truppa. E non per la trippa. E per la trippa chi sono cosa che ti ho mandato, chi sono io per la trippa veloce. Ma no, poi ha fatto un buon lavoro anche Massimino, mi ha accoppiato con gli alimentatori, capito, lì ci devono essere i voci giusti per poter fare andare un affare del genere, altrimenti non lo puoi usare. Ah, direttamente sì. In definitiva sì, a un certo punto non è che puoi fare molto casino. E te ne fatti due risate all'inizio. No, due risate, mi gioco bisciato. Cazzo, dovevo andare in bagno, la massa me ne scende, cazzo, dalle lacrime non ce la facevo più e si scido ripruzzata. Quelle sono belle serate. No, perché mi già era un giorno senza ridere così. Vero Antonio mi mandava gli audio, cioè, secondo me si è scuto a terra. Questo è un dalmata, per carità, no, l'altra era bella. Quando agitato, ma secondo te non si assomiglia a Pacciani, Ghiccio? Chi t'ha voto? Ghiccio, come è, San Ridì? Basta, cazzo. E oggi non c'è Antonio, cazzo. Dovevo andare, non so dove. Cazzo, ma avevo freddo. E tu mi andi ad andare. Ehi, qua, devo andare. Va bene. Cappa di drogero. Già, va bene. Ma poi un freddo pure a 3 gradi mi sono, mamma mia come sto. Adesso che in campagna stufa a legna, cucina, un caldo, strada da Dio. Io non escucci. Oggi era bello, una bella cecciata calda mio fave. Invece è abbastanza carbonara, ragazzi. Non mi piace. E neanche a me non ci vado matto. Direttamente a me no. No, a un certo punto non è che puoi mangiare sempre pasta. A un certo punto no. Allora, definitiva. KK, e cosa vuoi che ti dica? Automaticamente siete tutti e due uomini. Mia. Ah, Pugioni, mi. Beh, Pugioni, cuocuomane. Pugioni già lo so che è cuocuomane. Mi allora via, allora senti quel Luca, da mattina mi stava rompendo le scatole. Da mattina presto, a un certo punto non è che in definitiva Luca è così. E allora automaticamente rompendomi le scatole stava. Cazzo, ma tra lì, si verità d'ora in notte, devi bisciato e risati. Ma chi ora però? Dopo cena siamo stati un'oretta di cionfra vera e propria, come i vecchi tempi. Vera Luca, mandendi queste fotografie a me, a Antonio Bombolo, a Tino, a Cosio, a Antonio Riserva, basta le lacrime. Natale, mi gioco bisciato. Sì, me lo posso immaginare. Io no, quando sono andato a cena ho spento tutto qua. Non pensavo che entravate così tardi. Se no gli avete entrato pure qui. Per carità, guarda. Mamma mia. Allucinante. Allucinante, proprio mi gioco bisciato, non ha giovagogna. Dovevo andare, ma di quanto stavo ridendo mi gioco bisciato. Che me l'Antonio c'è cuto a terra, Antonio Bongo, a terra c'è cuto, ma mi ha dato la foto, era il trascinato in terra, non aveva di più. Chi tu mi guastai? Oia. Tutto, mia mamma c'è fuccio a due zampi in Antallaca che su gambe, mamma mia. Can, no, io l'ho fatto poco fa, poverino, ma ha fatto i bisogni subito al portone. Adesso è coricato nel lettino, manco nella brandina, perché la brandina sta di giorno, mi vicino al poggiolo, al sole. E coccato proprio nel lettino che è più caldo, capito? Si morendo da freddo, perché qua la mattina aprono tutto, cominciano a bambare a tutto, una corrente non si può stare, io sono in cameretta mia chiuso, perché nel salone non si può stare, quindi immagino già di chi sciugani cosa è soffrente. E avrà freddo, poverino, è per quello che tu ricatta i guidi nel lettino. Oia, oia. Beh, che ora sono le 11, vado a prendermi un caffettino, ragazzi, ci sentiamo dopo, ok? Già lascio tutto acceso qua, intanto vado in salone a prendere un caffettino che non ha giubilato e l'aria mi ha chiamato a prendere il caffè, già sono qua. Dai, io qua lo stesso, ciao Natalia, ciao Claudio, e devo scendere da Piccolo, ciao. Sentiamo dopo, già sono in ascolto io, ciao Lu, anche a te, io rimango in ascolto qua e devo fare qualcosa. Ciao Natalia, ciao Claudio, io devo scendere da Piccolo, ciao, vado a prendere la marina, scendo da Piccolo, ciao, ciao. Ciao Lugari, ci sentiamo dopo, ciao Tatali. Ciao Claudio. Tutti morti. segreto del cuore. Te li presentiamo con la stessa fiducia di un bambino mentre pianta un figlio. Va bene, spengo tutto tanto. Ciao, guarda, ciao. Hola, c'è qualcuno? Attento 10. Hola. Attenzione 10, c'è qualcuno? Avanti sul 10. Avanti sul 10. Non c'è neanche. Si è mollato un po', ma stamattina era terribile. Ma il mare non sembra agitato. Stamattina ho temuto per quell'antenna. Sono uscito a vedere, era un gancio. L'alluminio, più di voltato, non penso che pieghi. Ma se tipo Mantova non li fa un baffo? No, è molto più sottile, come più grosso è appena appena del mio dito. Sì, che pizza. È leggerissima, veramente leggera, proprio una canna da pesca sembra. Rinforzala. Ha detto di no, adesso non mettere niente. Brecco? Avanti Brecco, buongiorno. Ciao Robert, chi sei, Fabri? No, sono Claudio Porrotore. Ah scusa, mi ci assomigliava, ma aspetta, il segnale non è di Fabrizio, però la voce si assomigliava. Come le ascolti giù a Porto, sto provando un'altra radio? Santiago 7, radio 5 è ottima. Ok, ben sentito. C'è anche Luca, mi sembra, avanti Luca. Ciao Roberto. Ehi, questo è quello grande, sto provando, ho fatto delle diverse regolazioni. Com'è il livello microfonico? Va bene o è troppo basso? Ah, va bene. Ehi, avanti Claudio da Porto Torres. Sì, Roberto, la modulazione è molto chiara, molto è ottima. Non è molto alta, comunque va benissimo così per me. Guarda, posso fare una prova a sollevare? Guarda se succede qualcosa, sto sollevando un po'. La potenza, qualcosa è successo? È un pochettino di picchi positivi. Guarda adesso. Sì, quasi a 9, però di picco. Allora abbassiamo un pochettino, mi tengo più basso. Così è 7 rimane. Ora 7. Quasi a 8. Ok, dai, lasciamo così, allora non tocchiamo niente. I picchi sono positivi comunque. No. Come? Prova. Ora 1, 2, 3, prova canale 10, 27, 0, 7, 5. No, fai una cosa, metti prima la portante e poi fischia. Negativi. Allora devo regolare, altra regolazione. Guarda un po' adesso. Uguale. Ma non è che sono troppo alto di coso, no? Aspetta, c'è anche il processore qua, toccato, risetta un attimo reddo. Adesso abbassiamo appena appena. Guarda adesso, ora. Fai sempre la stessa cosa, prima metti la portante e poi aspetta un attimo e poi fischio. No, rifarlo. Forse c'ho. Abbassa un pochettino il carriere, lascia fare il processore. Devi aggiustare con l'LC. Dobbiamo passare appena appena il carrier. Un pezzettino per volta. Guarda adesso. Il resto sta spingendo di più. Va bene, i picchi sono giusti. Sembrerebbe di sì, però devi fischiare per vedere. Ma adesso non hai visto una roba. Dato aspetto, c'è successo una cosa, la devo guardare dopo, dai, non mi sembra, adesso ho cambiato radio però. C'è una cosa devo regolare, la faccio con calma, adesso non vi voglio mettere a fare niente. C'è un sacco di cose, ma meglio non toccare nulla, farlo in separata sera con l'antenna diretta. Perché c'ho troppa roba attaccata, c'è un commutatore e cose, poi come si chiama accordatore. Preferisco farlo diretta, adesso non aggiugare. Questa è più forte la radio, Claudio? Sì, è sempre buona, è sempre ottima. Ma hai notato differenze di forza? Questa è più forte o più bassa dell'altra? Sì, un po' più forte. vabbè, dai, quello posso fare altre cose, dai, vediamo con calma. Ok, chi c'è su questo canale oltre a voi due? Nessuno. Ma infatti roba inutile, tu sei andato pensando a fare che cosa in trasmissione. Entra come ricevitore, che in trasmissione è sempre l'altra che prevale, sempre. Magari ti sei fatto prendere dalla grandezza, ma non ce n'è. Vabbè, già si può fare anche con questa, con l'altra, con l'altro microfono che c'ha tutte le possibilità di fare le regolazioni, già si fa. Allora non ha giù tempo. Comunque il segnale tuo, rifammi Claudio il passaggio così ti dico quanto stai arrivando. Ok, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Il segnale tuo è 9 più 10 radio 5, che apparecchio stai utilizzando? È un cappetto. Non ho capito, un? Un caffetto. Un caffetto? 44. Ah, no, non ho capito, caffetto, ho detto, cosa vuol dire caffetto? Sì, caffetto. Ah, ho capito, dai, quindi è già meglio di questo. Che antenna c'hai tu Claudio, da quelle parti? Manco da uno. Quindi siamo stesse condizioni, uno qua, microfono 60 e radio 44. Tu Luca cosa sei? Sempre lo stesso, sempre lì con l'SM20. Già va bene, molto chiaro e forte. Il tuo segnale, prova a parlare. Per un po', 1, 2, 3, a picchi positivi sicuramente, Caparogero 1, 2, 3. Sei quasi 9 più 25. Guardami a me, un rapporto, dammi, va bene, adesso me l'avrai già dato, ma non me lo ricordo. 9 e 20, sei qua. Eia, ok, va più che bene, dai, questa è sempre la solita, non tocco niente, lascio sempre stare così senza né diminuire né aumentare, pulito e tranquillo. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se qua sul 10 vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu Claudio. Avanti Claudio. Ok, io sono entrato giusto un attimino, l'ho acceso, però stavo andando via, quindi vi saluto per il momento, ci risentiamo prossimamente. Salutoni Roberto, ciao Luca, ci sentiamo oggi, ciao ciao. Ciao Claudio, ben sentito, non so se ci sono sentiti altre volte, comunque sempre piacere ascoltare. Ok, avanti a te lui. Ciao Roberto, no, ciao Claudio, già ci vediamo mercoledì intanto noi. Dai un attimo, mi stanno chiamando Roberto, un secondo. Eia, c'è qualcuno su 10 nel frattempo? Che è avanti con le tre. Eia, capagata. Eia, beh, SM20 è il tuo microfono lui. Allora, adesso sono con lo Shure. Faccio benissimo comunque. Questo è lo Shure, quello di prima, di 2 secondi fa era l'SM20. Allora scusami, hanno chiamato un attimo, scusami. Ehi. Allora. Sono entrato lo E anche questo già va bene, giallo. Questo è lo Shure? Questo è lo Shure, quello col pirulino rosso per la regolazione dell'amplificazione. È perfetta questa modulazione, proprio chiara la tua voce, magari c'è un po' di alternata sotto o qualche vento, la cosa è questo rumorino che si sente. No, non c'è né vento, addirittura ho tolto quella dell'alimentatore. Che forse la televisione. Sento sotto un po' si sente, dai, non è fortissimo ma un po' si sente. Ancora? Prova a non parlare, stai zitto. Vabbè, adesso ho diminuito, si sente un po' la televisione o qualcosa sotto adesso. Magari, aspetta che ho visto una ghiera. Forse era troppo vicino alla radio. Comunque è bellissima, complimenti, questa è proprio come piace a me, pulita, senza difetti. Bello, questo è il famoso Shure. Non so se l'hai conosciuto, quello di plastica, c'è solo la placca in alluminio dove c'è la cosa di regolazione, dai. Gappa e la griglietta davanti. Ma è da palmo o da tavolo? Aspetti, mando la foto, dai. Bello, bella, si sente benissimo, guarda, non per dire, è una delle più belle qua in frequenza. Aspetti, sto mandando la foto, non è il mio Roberto, ho fatto le connessioni a cosa, Claudio? Quello che hai sentito prima di Porto Torres. Infatti mercoledì ci dobbiamo vedere che glielo devo dare. Aspetti, mando la foto. Ma quel Claudio è quello della radio famosa che devo prendere io? Sì, infatti ho immaginato. Sembrava Fabrizio, la voce era, si assomiglia a me a quella di Fabrizio, però il segnale era più basso. Ho detto che è strano che esca così basso Fabrizio. E su che radio la deve mettere però? Sul Kenwood. Già da ti ho mandato la foto. Aspetta, guarda. Sì, sì, è bello. Ma è originale il coso rosso di regolazione? Certi modelli li hanno fatti così, certi li hanno fatti con quello nero invece. Però se guardi su internet è pieno anche di dei modelli col pirulino rosso. No, no, è una bella modulazione, di lusso. Poi, ma sei sempre col 703? Sì, sì. Va bene, no? Insomma, un po' battato, un po' rovinato, però già... Non so, questo credo che abbia l'età del Turner, credo, No, no, esci che è una bomba. Ti ripeto, bellissima, come piace a me, non è di che si rumorose, barattolose o con effetti strani, esce proprio pulita, chiara, sembri qua a fianco a me, c'ha una qualità eccellente. E magari la sua capsula che lo fa uscire così bene. Credo che abbia la capsula del Turner, no? No, io non lo so, io il Shure non l'ho mai avuto, ne ho tantissimi microfoni, ne ho sentito tanti, però ti posso dire, su quella radio lì ho trovato giusto l'abbinamento, va benissimo, proprio spinge bene, la modulazione non ha difetti, non ci sono né troppi alti né troppi bassi, non è barattolosa, come piace a me, sembri qua quelli che dicono il telegiornale, solo voce. Bene, sono contento, adesso mercoledì però glielo devo restituire e proseguo con l'SM20. Guarda a vedere a chi può servire il Master Pro, ti faccio sentire adesso il Master Pro a chi può servire. Allora, fammi una cosa adesso, memorizzo, ti voglio solo ascoltare però anche guardandoti con gli strumenti, voglio sentire questa modulazione e poi tra un minuto ti dico metti l'altra così vedo che differenza c'è tra l'SM20 e questo. Sì, allora guarda un po' questo qua, ti lascio le regolazioni così come sono. Vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma a me mi avevano già mandato anche il video. Sì, lo Shure spinge di più anche dell'SM20. Ok, adesso metto l'SM20. Beh, prova, ho memorizzato ciò qua al display, così ti dico se spinge uno o più l'altro. Allora, questo è l'SM20, 1, 2, 3, vedi un po' com'è la modulation, non ho toccato niente sempre di cosa, vabbè, l'SM20 non puoi regolare niente. Così che vedi un po' KK. Allora, a livello microfonico è quasi pressoché identico, non noto differente il livello. La modulazione è leggermente un po' più carica di acuti, c'è un po' più di acuti questa. L'altra è più neutra, più naturale, ma perfetta, è belle tutte e due. Questa fa un pochettino più di acuti, ti dà un pochettino di S, fa così tipo quando fai prova SS, ti dà un po' di S pronunciate. L'altra è più neutra, è più piacevole, però sono belle tutte e due. Ok, allora adesso aspetta che lo sto prendendo, tolgo l'SM20 e ti metto il Sadelta Master Pro, così mi dai un controllo anche con quello, lascio le regolazioni così come le stavo usando nei giorni scorsi, però mi metto che il Master Pro non va bene, aspetta un secondo che te lo metto. E adesso guardando 6 dB più 6 dB di livello come lo Shure. Allora, questo è il Master Pro con l'amplificazione al minimo, adesso ti aumento l'amplificazione a metà, così a metà l'amplificazione, vedi un po'. Diminuisci l'amplificazione di questo, perché distorce, adesso sì, è allo stesso livello degli altri, però è un po' più distorta, riprova a abbassare un peluzzino. Allora, adesso te l'abbasso da metà, passo a metà della metà, così, vedi un po' se è migliorato. Allora, adesso è lo stesso livello dell'altro, come il livello degli altri due, prova a parlare. Come timbrica, vedi un po', questo provo, mi sa che ha quelle capsule rotonde piccoline, le classiche robe. Questo è il Master Pro, Sadelta Master Pro, che c'ha l'eco, il bip anche. Allora, questa è bella lo stesso, questa è un po' più ricca di modulazioni medie, ti toglie un po' più di bassi e un po' più di acuti rispetto allo Shure, però è bella anche questa, forse leggermente preferibile rispetto all'SM20 e leggermente meglio questa, però se alzi appena distorce un pochettino, l'SM20 non distorce, ha lo stesso parità di livello di dB. Ah, ho capito. Si chiede come amplificazione la lascio così, adesso dovrebbe esserci anche il bip, vedi un po'? Sì, ma questo c'ha anche il controllo di tono? No, questo c'ha il cursore dell'amplificazione, il cursore dell'eco e il cursore della velocità dell'eco. Guarda, se lo tieni così, se stiamo parlando, io non so se sei sempre alla stessa distanza, se l'hai orientato diversamente. Se orientato e distanziato alla stessa distanza di prima, va benissimo, non tocca, allora andrà perfetto. No, non ho toccato niente, solita voce. Allora, adesso l'ho regolato così, mentre così c'è l'eco. Vedi un po', 1, 2, 3, 5, 9. No, no, la stabilizzi, lascia, elimina tutto. Ti sporchi tutto e poi un effetto cattedrale, non è manco ecco. Ah, ma il microfono, questo c'è il modulatore anche, lo strumentino che ti indica. Caspita, se sono un minimo di amplificazione, ti puoi immaginare. No, no, va benissimo. Questa, ti ripeto, rimane un po' più ricca di modulazione, cioè di tonalità medie, un po' meno di bassi o meno di acuti. Però è bella, pulita, chiara, non posso dire niente. La Shure, se mi metti a scegliere tre, lo Shure leggermente meglio, perché è più equilibrato. Secondo questo e terzo l'SM20. Ma stiamo parlando di piccolezze che proprio te ne accorgi strumentalmente. Aspetta, ti sto mandando la foto di come sto tenendo l'amplificazione. È bella, mi piace così. Cioè qui, se lo devi tenere, regolatelo così, non toccare niente, Luca. Guarda, ti ho mandato la foto a quanto sto tenendo l'amplificazione. Bene, guarda, che cacchio, sei proprio basso basso. Cosa sto dicendo? Devi essere sotto la D. Sotto la D. Infatti, aumentandolo di pochino, si sente già la differenza. Vabbè, poi vabbè, si può regolare il meccanismo della radio, capito? Guarda, adesso te lo metto esattamente sotto la U. Guarda, te la foto sotto la U adesso. Stava solo a livello di curiosità a sollevarlo questo microfono, quanto mi dici questa 3, questa 4, questa 5, cioè dici a metà, voglio vedere quanto può salire. Allora, adesso è sotto la U, adesso è alla fine della L, cioè inizio, adesso è appena più della metà, adesso è a metà, 1, 2, 3, prova. Mettilo solo per curiosità, al massimo quanto distorce. Così al massimo, vabbè, così al massimo. Ma se non ti avvia, allora questo ti amplifica un po' tutto quello che c'è vicino. Se ti allontana, anche 20 cm c'è la distanza dal microfono. Una trentina. Se ti piace l'accombattimento va bene anche questo. No, pensavo di distorcerci di più, no, va bene. Se no, se vuoi una modulazione perfetta pulita, va bene come abbiamo regolato prima. Cos'era la prima lettera, cos'è? Ah, sì, sì. E così? Cosa cambia, roba con l'eco? Prova. Si sente l'eco? O niente ancora? No. E allora devo mettere così, quelli sembra che sia. Sì che c'è, ma è molto disordinato, non lascia perdere. Lascia lì, mettiti al massimo, il meglio che puoi uscire era come la prima. Posizione tra la O e la D, quella come c'è tu. Sì, vabbè, guarda senza velocità dietro, cosa c'è? Questo però è, se non, è, non è proprio un eco, è un riverbero più che altro, c'è un effetto molla a cattedrale. Ah, un secondo, vabbè. Ehi, nel frattempo su 10 c'è qualcuno che vuole entrare o cosa ne facciamo? Ehi, allora Roberto. Prova a parlare. Vedi un po' con l'eco, allora praticamente la velocità al minimo, vedi un po'. Ma l'eco, allora quello lega, la velocità e anche l'effetto eco. Guarda, questo trovi cambiato là, vedi un po' se cambia. Sì, cambia, sì, però non è pulito pulito. Allora, facciamo così, abbassi tutti e due a metà adesso lo lasciati, vedi un po'? L'amplificazione si fa al massimo però, eh. Ehi, prova a parlare l'eco. Non c'è l'eco perché? Sì, sì che c'è, però ti sporca un po' la modulazione, vabbè, a cambiare altri gusti, a me sinceramente. Allora, guarda, l'eco adesso è al minimo. Ma hai alzato l'amplificazione? Sempre al massimo l'amplificazione. Abbassala un po', mettila a tre quarti. Allora, tra la O e la D adesso te lo metto l'amplificazione, guarda. Prova a aumentare l'eco adesso. Allora, ecco a metà, vedi un po', peggio. Solleva ancora l'eco. L'eco, ok, vedi un po', 1, 2, 3, prova. Fai un passaggio lungo e sollevano un po' di più. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, quasi a... abbassa appena appena e aumenta un po' l'amplificazione. Allora, abbassiamo appena appena e mettiamo sotto la U l'amplificazione. Com'è? Oh, per chi piace è abbastanza comprensibile, dai, c'è di peggio e anche di meglio. Ah beh, sicuro. Ah beh, se non va bene a tocco, non è che... No, ti ripeto, io sono contrario all'eco, tu stai dicendo perfettamente, adesso non c'è necessità, se mi dici sei nel camion, devi fare TV, stai camminando in una zona montagnosa, per cui è utile, ma qua dentro non ne facciamo niente, ok, rimetti tutto nuovo come la prima. Allora, ok, ho dato tutto e sono sotto la Google amplificazione. E va benissimo, io terrei tutto così e non toccherei niente, è bella radio, pulita e chiara. Sì, ho tolto anche il bip, ho fatto, lo rimetto. Ma guarda, il bip non è fastidioso, perché secondo me molte volte può essere utile quando almeno ti ascolti quando ha finito di parlare, sei sicuro che ha finito, a meno che non c'hai sotto mano lo smitter che ti vede il segnale, però se uno magari non ha lo smitter, lui, il bip ti può avvisare, può essere utile, diciamo, quello non mi dà fastidio. Va bene, aspetto, facendo un video un amico. Allora, come vedi, c'è la luce di cosa? Uno, due, tre, prova, sto facendo il video. KK. Ma quando ne stai tirando fuori col baracchino? Dici, aspetta. Vediamo un po', sì. Perché è troppo, Robè? 10. No, che c'è un bel segnale, è quello che sto dicendo, infatti non è che ce ne hai in abbondanza. Sì, ma è perché questa radiolina c'ha un sacco di picchi di modulazione, mi hanno detto. Infatti si vedono, spinge parecchio. Ma tu prima cosa c'avevi per dire qualche anno fa? Non ce l'hai mai avuto questo? Mai avuto. Mi è sempre piaciuto, un po' perché è completo, un po' perché è piccolo, un po' perché spinge anche in AM grazie al compressore che appunto si può inserire anche in AM. No, perché anni fa l'avevo sentito a una persona che non c'è più qua, però non era un granché come uscita, lo sai, forse c'aveva un'altra versione, non lo so, in AM non funzionava bene, in FM manda laterali sì, però in AM era un po' chiuso, ma là c'hai equalizzatore tu, possibilità di lavorare all'interno dell'apparecchio? No, è che questo c'ha il menu, entri nel menu, regoli l'amplificazione, i watt, capito? Ed è quello che ti ho fatto vedere usandolo, che lo uso con Home Radio Deluxe, con il cavetto. Sì, no, già lo conosco come radio, però forse ne hanno fatto altre versioni, quello che avevo sentito io non usciva così bene in 26. Ma guarda, hanno fatto la versione questa qui e la versione quadribanda, che ce l'aveva a Manuel Ginco, e usciva una cannonata, perché ripeto, il compressore agisce anche in AM, anche con quel modello lì, mentre nel 7000 per esempio non agisce in AM il compressore del 7000 o processore, chiamiamolo così. Però questi modelli qua sì, il tribanda e il quadribanda agisce e lo fanno spingere. Quanti watt da eroga in AM questo? 40. E in banda laterale? 100, in HF è tutto 100 da, sia in banda laterale che anche in FM 70 mi sembra. No, è compatto, funziona bene, dai, niente da dire. E affidabilità come sono queste? Vanno benissimo, a me piace tantissimo, ti ripeto. Anche perché pigio e mi sposto i VHF, i 6 metri, capito? È sempre andato bene. Poi ripeto, l'ho scoperto per caso del compressore anche in AM, perché appunto frugando così dentro la radio ho visto comp, editore su comp, ho premuto, cazzo, ho visto lo smitter che è a manettone, ho detto reagire, questo è come il processore alla fine. Magari allora, quando l'ho sentito io non era utilizzata quella funzione lì, no, funziona bene, una bella radio, niente da dire, chiara, pulita, non ha difetti di sorta, diciamo, di qualcosa che ti porti a presumare, ti stringe un po' la modulazione, pulita, chiara, non posso dire niente, anche se io ti ripeto, a me piacciono sempre le radio grandi, cacchio, quelle tipo quell'ultima che c'ho. Ne sono anche poco facile sui beni, 600, una cosa del genere. Vabbè, quelle sono belle quelle robe. Ma se le stanno facendo pagare. Poi se le truppe allineate e fatte costano anche molto di più. Però sono radio come ricevitori, sono una bomba. Ho fatto delle prove, a parte che è molto, molto, ma molto meno rumoroso del COS. corso dell'altro. Mi ha fatto la prova strumentale Fabrizio, 100 meno 124 dB riesce a tirar fuori, un valore assurdo, diciamo, solo con apparecchi digitali nuovi riesce a avere quei valori superiori. No, che a me sempre è piaciuto, ma anche la versione precedente era bella. A me più che altro mi piace perché c'è l'alimentatore interno, a me avere tutti i climbar, anche se ho la possibilità c'ho alimentatori grossi, non ne posso attaccare 10 di apparecchi, però qua pigli, accendi e vai. Poi c'hai un sacco di possibilità di come si chiama, di adattamenti, di cose. E questo sono sicuro, se tu apri sopra c'è un'apertura dove ti fa delle regolazioni anche dei microfoni, che cose, di uscita, sono sicuro che questo si riesce a fare. L'unica cosa, non sono riuscito a capire il monitor, per questo c'è il monitor per ascoltarti, però non sono riuscito, devo leggermi le istruzioni. Sì, no, guarda su internet direttamente, ci sono dei video che ti spiegano come metterlo, fai prima che guardare nel manuale. Perché poi le istruzioni sono poco dettagliate, sono molto generalizzate, molte informazioni te le danno per scontate, che se uno non ha un po' di esperienza devi un po' lavorare per capire certe cose, però posso dire esteticamente è bello, è nuovo, non ha grossi, poi c'ho l'altoparlante suo di linea, l'ho messo vicino, è un barrasone pesante, mi pesa 20 kg il giocattolino, però mi piace. Penso che all'epoca era il top del periodo, ma ho letto le cose, le recensioni, tutti ne parlano bene, dice che era un grandissimo ricevitore all'epoca. Il problema è oggi con tutto questo inquinamento, in un casotto con questo inquinamento, vabbè, molte radio ne stanno soffrendo purtroppo, e allora vanno sempre a cercare radio con super filtri, super quello, super l'altro, perché le radio vecchie ne stanno risentendo. Non lo so, adesso ho visto un sistema, non so se l'hai visto, utilizzi due antenne, un soppressore di QRM, non so se l'hai visto, che te le mette in controfase una con l'altra, l'antenna ti toglie totalmente il QRM, un sistema che non costa neanche molto, c'è un'antenna pilota, diciamo, quella che usi per trasmettere, una antenna simile o uguale, sarebbe ancora meglio, collegata insieme a questo apparecchio, una va in controfase con l'altra e ti annienta il QRM, ed è una cosa molto interessante, è una specie di ESP, però fa lavorare le antenne in controfase. Ma però c'è in giro uno che sta vendendo QRM eliminato, una cosa del genere. Probabilmente la stessa cosa, no? Interessante come cose, perché si riesce a eliminare tutti questi disturbi senza utilizzare i filtri FM, perché il problema sono le broadcasting, quelli lì che stanno creando un sacco di problemi, poi non parliamo di telefonia, quelle magari un po' di meno perché le potenze sono basse, ma le broadcasting adesso stanno usando potenze da paura, cioè devi metterti un filtro per l'FM, scusami che c'è il telefono. Oh Lu, vabbè, mi hanno chiamato, ora devo andare via, che pensavo ma si mangiasse un po' prima, sono invitato, invece si mangia un po' prima, qualche minuto prima. Dai, ci sentiamo Mari stasera, se coincide, dai, se no buon tutto, ciao ciao. Ciao Robe, buon pranzo, dai, stasera. Vediamo un po' se c'è qualcun altro, se è rientrato Claudio di Porto Torres, se no chiudo anch'io.